Storie italiane. L'ape Maya. C'era una volta, nel cuore della foresta, un alveare su un albero. Era un giorno importante per tutti là dentro. Oggi era il giorno in cui i bambini sarebbero nati. Ma questa è la storia di qualcuno di speciale. Ah, mi bruciano gli occhi! Perché è così buio qui? Wow! Questa è la storia di Maya, l'ape Maya. Forza, portatele fuori! Prendete i vostri posti ora! Ti chiamerai Maya. Maya... Aspetta, perché Maya? Perché abbiamo bisogno di nomi? Io... non mi è stato detto che avrei dovuto rispondere a delle domande. Ma, beh, abbiamo tutti un nome, così che gli altri possano chiamarci. Se dico solo tu, ape... Sì? Cosa? Stai parlando con me? Ora sai perché abbiamo bisogno di nomi. Sì! Perché siamo tutti uguali ma anche diversi! Questo è assolutamente corretto. È un buon pensiero ronzante. Andiamo tutti, seguitemi fuori! Wow! Maya era eccitata. Era come essere dentro un palloncino lucido e dorato. Tutte le api erano impegnate con il loro lavoro. Alcune stavano pulendo le pareti dell'alveare. Alcune lasciavano cadere il polline in qualcosa che sembrava un diamante. Altre stavano semplicemente camminando in fila. Bene, ora a tutti verrà assegnato un lavoro. Quelli che puliscono sono addetti alle pulizie. Poi abbiamo le api da raccolta, le api operaie. Perché dobbiamo lavorare? Che tipo di ape sei? Le api non fanno domande. Oh, non essere così scortese, Julian. Lei è solo una bambina. Maya, dobbiamo lavorare, perché se non lo facciamo, saremo tutte molto confuse e inutili. Se i pulitori non puliscono, l'alveare si sporcherà. Se le api da raccolta non raccolgono nettare... Cos'è il nettare? Il miele è fatto dal nettare dei fiori. Là! Le vedi? Sono le api da raccolta. Prendono il nettare dei fiori e poi le api operaie lo trasformano in miele. Le api da raccolta portano il nettare dei fiori, ma come portano il nettare? Oh, dolcezza, piccola bambina! Nel loro stomaco da miele, ovviamente. Tutti ne abbiamo uno. Oh, è quello che sento gorgogliare di fame. Niente affatto. Quello è il tuo stomaco da cibo. Se continuiamo ad intrattenerlo, saremo bloccati qui tutto il giorno. Perché non possiamo stare qui tutto il giorno? I giorni passarono. A tutte le nuove nate vennero assegnati lavori diversi. Alcune pulivano l'interno, altre levavano le foglie secche all'esterno, alcune raccoglievano il nettare dei fiori, altre custodivano l'alveare contro i predatori. Tutti avevano un posto fisso, tranne Maya. Lei vedeva le cose in modo diverso. Mentre tutti pulivano le pareti con le loro mani, lei semplicemente soffiava contro le pareti e considerava il lavoro fatto. E quando le api camminavano in fila... Perché mi stai causando problemi? Tutti sono preoccupati perché non riesco a trovare il mio posto. Quindi sto cercando di vedere se posso camminare come te. Bene, lo stai facendo assolutamente in modo sbagliato. Ma tu sei tu e io sono io. Come posso camminare come te? Dimmi, tu sai camminare così? Oh, certo che posso! Guarda! Oh no! Cosa sto facendo? Tu, bambina, mi stai distraendo! Che tipo di ape sei? Oh no! Sono rimasto indietro! Cassandra, l'ape operaia, e persino la regina stessa non riuscivano a mettere Maya da nessuna parte. Guardava tutto con eccitazione e faceva un sacco di domande. Cosa hai sulla testa, grande ape? Non puoi parlare alla regina in quel modo. Mi dispiace tanto, vostra maestà. Dimmi, Maya, perché non vuoi lavorare? Non lo so. Qui tutti sono sempre così occupati. Semplicemente lavorano. Non mi sento felice quando li vedo. Ma mi sono sentita felice quel giorno in cui sono caduta da quella cosa che sembrava un diamante. Sono scivolata. Poi ho volato intorno. Il mio sogno è volare. Andare fuori e vedere il mondo. Oh, Dio! Di cosa sta parlando? Sognare? Felice? Che tipo di ape sei? Le api non sognano. Oh, vostra maestà, perdonatemi. Lei non vuole fare pasticci. Ho cercato io stessa di farla lavorare. Ma lei continua a parlare di uscire. Forse è quello che vuole davvero. Forse questo è ciò in cui è brava. Possiamo mandarla a raccogliere il nettare. Bene, chiedere a un'ape cosa vuole essere. Questa è la prima volta. È anche molto strano. I posti delle api vengono assegnati non appena nascono. Ma se è un bene per l'alveare, così sia. È abbastanza grande per essere mandata a raccogliere il nettare. Allenala bene e falla uscire. Ah, sì, vostra maestà. E così a Maya venne insegnato tutto sui fiori. Fu quindi addestrata a seguire lo sciame di api. Venne avvertita ripetutamente di non volare mai da sola. E infine le parlarono dei calabroni. I calabroni erano i nemici giurati delle api. Cercavano sempre di rubare il miele e ferire le api. Ma possiamo pungerli se ci feriscono, vero? Ah, i calabroni stanno diventando più intelligenti, Maya. Indossano l'armatura ogni volta che ci attaccano. Solo il collo può essere punto, perché non indossano elmetti. Ma quasi nessun'ape è mai riuscita a pungere un calabrone durante una guerra. Stai attenta a non farti trovare da loro, va bene? Farò attenzione. Maya salutò Cassandra e partì con lo sciame. Questo era il suo primo viaggio al di fuori dell'alveare. Nel momento in cui uscì, Maya era così eccitata. Gli alberi, le felci, i fiori. Oh, è così bello qui! Potrei svolazzare tutto il giorno! Shh, siamo qui per lavorare, Maya. Smettila di ronzare. Assicurati di essere sempre vicino al tuo sciame. Ma Maya non stava ascoltando. Era impegnata a godersi il suo primo volo. Cos'è quello? È così scintillante. Oh, mi spiace. Non sapevo che ci fosse qualcuno qui. Ciao, sono Maya, l'ape. E tu? Oh, anche tu mi sembri un'ape. E tu sei carina. Devo ammetterlo. Oh, aspetta. Mi stai copiando? È molto cattivo da parte tua. Oh, mi ferisci così. Sei molto maleducata. Bene. Guarda cosa abbiamo qui. Un umano travestito da ape. Cosa? Travestito. Significa che sei un essere umano con le vesti di un'ape. Ma io sono un'ape! Io non sono un umano! E anche questa è un'ape, ma molto maleducata. Questo è il tuo riflesso. Lei non è maleducata. Tu sei maleducata con te stessa. È tutto nella tua testa, proprio come un umano, fidati di me. Loro stessi creano la maggior parte dei loro problemi. Comunque, cosa stai facendo qui? Oh, che scortese! Mi chiamo Maya. Maya l'ape! Lo so, ti ho sentito quando ti sei presentata a te stessa prima. Ah, giusto. In realtà ero fuori con il mio sciame per raccogliere il miele. Oh no! Il mio sciame! Sono scappata! Sono tutti andati! Aspetta un minuto. Hai perso la tua strada mentre eri con il tuo sciame? Che tipo di ape sei? Cosa farai ora? Oh, non lo so. Raccoglierò del nether e troverò la strada di casa, immagino. Bene, c'è un bel mazzo di fiori succosi laggiù. Puoi provare. Oh, è così gentile da parte tua. Grazie, signor Cavalletta. Il nome è Cavalletta. Cavalletta Flip. Oh, certo. Cavalletta Flip. Grazie. Maya raccolse tutto il miele che trovò e svolazzò per tornare a casa. Volò attraverso gli alti alberi e cespugli, ma aveva ancora una lunga strada da percorrere. Oh, sono stanca. Forse posso riposare da qualche parte per un po'. Posso continuare più tardi. Proprio in quel momento, mentre la piccola Maya stava cercando un fiore... Lasciatemi andare! Non così presto, piccola ape. La regina sarà così felice di me. Noi! Lei sarà così felice di noi! Abbiamo trovato una piccola e graziosa ape. Non chiamarla graziosa, sciocco! Lei è il nostro nemico giurato! Oh, hai ragione! Quella piccola brutta ape con gli occhi graziosi. Andiamo e basta! I calabroni rinchiusero Maya in una piccola stanza. Maya era molto spaventata e cercò di scappare, ma fallì. Cosa faccio adesso? Shh! Questo è un piano molto segreto, va bene? Ascolta, daremo a quelle api una lezione domani. Oh, dovrei portare la mia penna rossa? Cosa? No, non quella lezione. Domani attaccheremo il loro alveare. Sì, pronto. Oh, cosa facciamo con quella che abbiamo catturato? Vedremo cosa fare di lei domani mattina. Andiamo ora, andiamo ad aiutare le guardie. I calabroni non sapevano che Maya stava ascoltando il loro piano. No, stanno per attaccare il mio alveare. No, non posso perdere la speranza. Devo salvare la mia famiglia. Quella notte, Maya non riuscì a dormire. Continuava a pensare a cosa fare. Oh, come posso fermare i calabroni? Solo il collo può essere punto perché non indossano il metti. Ma quasi nessun'ape è mai riuscita a pungere un calabrone in guerra. Aspetta, ho capito. Mentre il sole stava sorgendo, il calabrone arrivò nella stanza di Maya. Ehi, piccola ape! Aspetta, dov'è lei? Questo è quello che succede a chiamarmi brutta. Devo avvertire la regina. Maya volò più veloce che poteva e raggiunse il suo alveare. Raccontò l'accaduto alla regina. Oh, no! Veloce! Allerta le guardie! Dobbiamo essere preparati! L'alveare era pronto per l'attacco. Quando arrivarono i calabroni, le api attaccarono piene di energia. Volarono dall'alto e punsero i colli dei calabroni. Maya aveva spiegato tutto alle api. I calabroni erano confusi e storditi. Ritirato! Ritirato! Scapparono tutti, men che non si dica. Le api sono le migliori. Oh, ti siamo tutti molto grati, Maya. Il tuo coraggio e la tua intelligenza ci hanno salvato oggi. Questa è casa mia. Farò qualsiasi cosa per proteggerla. Oh, bambina mia, sono così orgogliosa di te. Dimmi, cosa vuoi diventare da grande? Voglio fare l'insegnante. Racconterò a tutte le api delle mie avventure e insegnerò loro ad essere se stesse. Se stesse? Sì. Tutti continuano a chiedermi: che tipo di ape sei? Beh, io sono la mia specie di ape. E così siamo tutti. Voglio essere anch'io il mio tipo di ape. Il tuo tipo di ape è noiosa. Sì, il mio tipo di ape. Bene, Maya. Sei una buona insegnante di sicuro. E siamo felici di averti di nuovo con noi.